Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Il vento soffia soprattutto da Roma in giù. Girano le pale eoliche e insieme all'energia girano non solo gli affari puliti, ma anche le carte bollate dei tribunali in un far west di leggi e richieste fantasiose degli enti locali. Il dio Eolo fa girare anche i soldi di chi paga pur di avere autorizzazioni e velocizzare burocrazie. Così, insieme alle pale, si muovono pure milioni dei boss che hanno deciso di affidare i propri investimenti ad un vento sicuro. L'eolico è uno degli affari di corruzione più grande, ha sentenziato il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, che si è fatto una domanda. Perché in Italia non ci sono i mulini a vento? In compenso sono fioriti aerogeneratori per catturare ogni libeccio o tramontana che soffi in tutto il sud, isole comprese. A fine 2009, gli impianti presenti in Italia sono 294, per una potenza, calcola il gestore dei servizi energetici, di 4.898 MW. Siamo il paese dove il vento negli ultimi anni ha soffiato più forte, visto che la crescita è superiore alla media sia europea che internazionale, più 335% in Italia tra 2004 e 2009, a fronte del 114% nell'Unione Europea e del 233% nel resto del mondo. È la Puglia la regione con il maggior numero di impianti, 72, in gran parte nella provincia di Foggia, che con il 20,4% ha la concentrazione più alta d'Italia. Segue la Campania, con 54 impianti in prevalenza tra Avellino e Benevento, quindi Sicilia e Sardegna. Con l'eccezione della Sardegna, dove il movimento delle pale però ha contribuito a diradare le nebbie sulla presunta nuova P2, guardando questa mappa verrebbe da dire le solite regioni. E anche i soliti nomi ritornano in più inchieste. Così un immaginario ponte ha legato ad esempio le montagne dell'Irpinia al mare di Trapani, con un'inchiesta della procura di Avellino che ha portato all'arresto, tra l'altro, del presidente della Benevento Calcio, Oreste Vigorito. Via col vento l'hanno chiamata. Tutto è ancora aperto, ma c'è aria di patteggiamenti in questo fascicolo, aperto dopo una segnalazione del Nucleo Speciale Spesa Pubblica, ricostruisce il colonnello Mario Imparato, che guida la Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Avellino. Quello che è emerso principalmente è proprio la truffa, al fine dell'indebito percepimento di questi contributi. Contributi per beneficiare dei quali ci vogliono due requisiti principalmente: una grande disponibilità finanziaria e secondo la disponibilità dei terreni. Ogni terreno, prima di garantirsi il placet per poter essere utilizzato come sito per un parco eolico, deve superare diverse analisi. Quindi, secondo l'accusa, la truffa consisteva nel non avere le attestazioni necessarie per i terreni e contemporaneamente per aver dichiarato cose false rispetto alla propria disponibilità finanziaria. Sì, le scatole cinesi. La ditta A aveva sia la disponibilità finanziaria che i terreni, chiede il contributo, gli viene elargito il contributo e si dà l'avvio al parco eolico. Viene poi costituita un'altra ditta, che poi noi abbiamo provato a essere riconducibile alla ditta A. La ditta B, la disponibilità finanziaria, se l'acquisisce tramite i fondi che già sono pervenuti alla ditta A, e i terreni o con certificazioni false oppure in corso di acquisizione. Quindi viene dato il contributo alla ditta B con la connivenza magari di qualche ingranaggio del Ministero dello Sviluppo. È stato anche denunciato un funzionario di una società a cui viene appaltato il seguire tutta la pratica. Si costituisce una ditta, una terza ditta C, che con parte del contributo di A e buona parte del contributo di B dimostra di avere solidità finanziaria, chiede a sua volta il contributo e così via. Abbiamo trovato un totale di 9 società collegate fra di loro, peraltro aventi sedi tutte quante nello stesso indirizzo qui in provincia di Avellino, che però non avevano per esempio fatto dei parchi eolici qua, avevano costituito parchi eolici in Sardegna, 1, 2 a Ploaghe e principalmente in Sicilia. Il transito di capitali da una società all'altra è transitato in paesi esteri, parliamo dell'Olanda, parliamo della Spagna, parliamo dell'Inghilterra, del Belgio. La truffa è stata ricostruita a quanto ammonterebbe? Maggio 2007 abbiamo fatto un primo sequestro di circa 9.500.000 euro presso il Ministero. Ottobre 2008 un ulteriore sequestro presso il Ministero per altri 20 milioni circa di euro e poi sono praticamente 7 parchi eolici per un 150 milioni di euro. euro circa. Le leggo i comuni: Carlentini, Militello, Val di Catania, Vizzini, Ploaghe, l'unico in Sardegna, Camporeale, Palermo e Partinico, Palermo. Sull'eolico ci sono altre inchieste aperte vostre? Mi riservo di non dirglielo, se posso. Comunque diciamo che stiamo approfondendo tutti i flussi di contributi comunitari transitati attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico. Una società, poi un'altra, quindi un'altra ancora, uno schema di scatole cinesi, secondo l'accusa, che si trasforma in una rete di Sant'Antonio di amici e amici degli amici. Abbandonata l'edilizia, l'eolico è il nuovo business della mafia, commenta Francesco Messineo, procuratore capo di Palermo, dopo il sequestro di beni per 1,5 miliardi a Vito Nicastri di Alcamo. Il signore del vento, come ebbe a definirlo il Financial Times, un uomo vicino al super latitante di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, rivela il ministro dell'interno Maroni, ed è anche l'uomo col più alto numero di concessioni per parchi eolici in Sicilia, parchi che rivendeva a suon di milioni, tanto da permettersi 30.000 euro per il parrucchiere, elenca Messineo al microfono di Nino Amadore. Patrimonio enorme che vede 63 società di capitale, circa 100 immobili, numerose autovetture, un catamarano e circa 60 rapporti finanziari che vedono conti correnti con contante, oltre ad azioni e titoli vari. Sull'isola i segnali degli interessi della mafia sulle energie pulite si erano mostrati già secondo il consueto codice. L'incendio, ad esempio, nel trapanese di un camion che trasportava le pale. E proprio per infiltrazioni connesse con l'eolico era stata sciolta nel 2005 l'amministrazione di Vicari. Notizie che hanno portato un imprenditore anglosassone a chiedere al suo legale: che mi succede se investo in Sicilia? Al vento e ai suoi affari, tra Strongoli e Melissa, sembrano condurre anche le inchieste di Crotone sull'omicidio di Silvio Russano. Almeno 3 poi i fascicoli a Catanzaro, che chiamano in causa le linee guida regionali per le costruzioni dei parchi. Nell'inchiesta principale, che ha sullo sfondo investimenti anche della multinazionale ERG Eolica, sono coinvolti ex amministratori, tecnici e faccendieri e si sospetta, tra l'altro, l'esistenza di una tangente da 2.400.000 euro. Fino a pochi mesi fa ha lavorato sul fascicolo anche l'allora PM di Paola, Eugenio Facciolla. C'erano interessi da parte di imprenditori rampanti che trovavano sponda poi in rapporti molto vicini a questi ambienti politici. È un affare che ruota molto attraverso le convenzioni con i vari comuni che sono sul territorio e che poi vengono rivendute alle multinazionali dell'energia. Siccome è una procedura complessa, se si riesce ad avere dal punto di vista politico una sorta di lascia passare per realizzare insediamenti di questo tipo, chi ottiene il famoso certificato verde, il contratto per realizzare l'insediamento, poi sul territorio deve operare attraverso imprese locali, soggetti locali che interagiscono proprio per controllare questi lavori. Se noi consideriamo che, ad esempio, se il parco eolico lo facciamo a distanza dalla strada principale di un certo numero di chilometri, bisognerà fare un movimento terra per poter arrivare sul cocuzzolo dove poi si vanno a installare le torri. C'erano pressioni per attenuare le limitazioni per la costruzione degli impianti? Noi riuscimmo a documentare in qualche modo la fusione tra il know-how tecnico operativo di chi aveva ideato questo progetto assolutamente legale e dall'altra parte soggetti che operavano in ambito politico-amministrativo e poi altri soggetti che invece sul territorio erano un po' referenti, diciamo così, di qualcuno o addirittura referenti in se stessi in alcuni casi. È chiaro che ogni intervento di questo tipo passa attraverso quello che viene definito come piano eolico regionale. Le linee guida che noi trovammo in realtà creava diverse difficoltà di realizzazione di questi parchi eolici. Non si poteva ad esempio costruire a ridosso del litorale, erano le cosiddette zone di protezione speciale, ZPS o i SIC, siti di interesse comunitario. Di punta in bianco, dopo una serie di situazioni che avevano visto interagire i soggetti di cui abbiamo parlato prima, questo piano eolico cambia radicalmente, per cui si viene a dare la possibilità di posizionare queste torri un po' dovunque. Ed è proprio in questo passaggio che si allungano sospetti sul ruolo degli intermediari e il ruolo di consulenze che potrebbero in realtà nascondere tangenti? Sì, perché perché il procedimento vada a buon fine. È chiaro che ogni pedina deve essere al suo posto, se c'è l'uomo di riferimento stabilirà lui qual è la strada più comoda da seguire e quella meno impervia. Un punto chiave è il rischio di mercato delle autorizzazioni. Sì, perché comunque poi si guadagna molto attraverso proprio le autorizzazioni. In questa inchiesta ci sono nomi di grandi imprese mosse da progetti imprenditoriali seri che poi a livello locale casomai coinvolgono anche personaggi non proprio limpidi. Ma come mai? Sono società multinazionali che a loro volta si compongono di varie società satelliti sparse sul territorio attraverso delle partecipazioni ad altre società che sono invece proprio tipicamente territoriali. Lo schema operativo che si riscontrò nel corso di quelle indagini in realtà era uno schema che poi era mutuato sia in Sicilia sia in Puglia. E anche dei nomi? In alcuni casi anche dei nomi, sì. La multinazionale in realtà non ha un'organizzazione territoriale e allora sono dei referenti che poi entrano in contatto diretto sul territorio con i referenti locali. Cercano di portare dalla propria il territorio in cui vanno. Perfetto, e comunque hanno la forza poi di poter pagare. Ricordo per esempio c'era un parco eolico, quello di Isola Capo Rizzuto per intenderci, e lì erano previsti qualcosa come un centinaio di aerogeneratori, sviluppavano una potenza complessiva di circa 150 megawatt. Se partiamo da questi dati, la multinazionale che va a comprare energia paga un tot per ogni megawatt prodotto e quindi parliamo ovviamente di milioni di euro. Se lì poi andiamo ad applicare a livello ipotetico, non dico la tangente, ma il costo dell'interessamento di qualcuno e di qualcun altro va ad arrivare a un 2% o un 5%, si arriva a una cifra di 120-150 milioni di euro. Immaginiamo che poi la percentuale che va utilizzata per i costi, diciamo, di gestione dell'operazione si aggira intorno ai 4-5 milioni di euro. Queste cifre solo grossi multinazionali possono essere interessate. Pioggia di finanziamenti europei mista a un diluvio di leggi regionali. Per i ladri di vento le condizioni sono ottimali e infatti gli affari delle cosche girano veloci, col paradosso che restano fermi fino a 7 anni, come è successo in Molise, i progetti trasparenti, perché con l'eolico se furbizie e malaffari sono spuntati come funghi dopo un temporale, come si vede dalla proliferare delle indagini. Non bisogna dimenticare che l'energia rinnovabile resta un investimento sollecitato dall'Europa e abbracciato da decine di società serie che, come sentiremo più avanti, di questo far west pagano lo scotto. Per ora la parte più visibile della caccia al vento restano le pale o i sigilli messi a parchi interi come quello di Sant'Agata di Puglia, con i suoi 51 aerogeneratori sequestrati quando l'amministrazione è finita sotto inchiesta per abuso d'ufficio. Nell'Eccese, avvertendo il cambiamento delle correnti, il clan Bruno ha fatto incetta di terreni e dei nulla osta per gli impianti. In Alta Murgia sono almeno 3 le indagini aperte e c'è odore di malavita, secondo gli inquirenti, che si sono ritrovati anche il nome di Luigi Franzinelli, trentino, già condannato a 9 anni in primo grado per corruzione e presunto favoreggiamento. Mai pagato tangenti, si difende. Dall'Alta Murgia al Salento, i magistrati pugliesi scrutano molto il vento. Il procuratore capo di Bari, Antonio Laudati. Come tutte le cose innovative e che producono anche dei grossi investimenti, sono sicuramente positive, ma possono comportare delle problematiche per quanto riguarda l'interferenza della criminalità. L'interferenza di tipo criminale può essere a livello individuale, imprenditoriale, societario, o può essere da parte della criminalità organizzata. Si parla di un mercato per le autorizzazioni per l'installazione degli impianti. Ci sono delle indagini in più regioni, c'è stato indagini anche all'estero e un'attività di coordinamento che ha fatto anche la Procura Nazionale Antimafia. Questa delle energie rinnovabili è il business del futuro. Siamo in una fase in cui dobbiamo monitorare e comprendere bene, anche perché c'è un forte collegamento tra le imprese che operano su tutto il territorio nazionale, imprese che sono collegate tra di loro, spesso grandi imprese. Puglia è il dorado delle energie rinnovabili, 1151 i megawatt effettivi a fine 2009, 486 le richieste ancora in sospeso. Un'esplosione favorita dalla legge regionale del 2008 dichiarata incostituzionale a marzo. E anche in questi cambiamenti per gli esperti si insinuano consorterie di vario tipo. Di eolico si sta occupando molto l'avvocato Vincenzo Saponara, che assiste tra l'altro la ERG Eolica. Reati contro la pubblica amministrazione, quindi la corruzione, la concussione, l'abuso d'ufficio, oppure quelli di frode, quindi truffe a livello regionale o comunitario, più frequentemente di altri violazioni di leggi di tipo ambientale o paesaggistico. Una delle cose su cui generalmente si focalizzano gli inquirenti è rappresentata dai rapporti delle società con le società cosiddette di consulenza, di intermediazione. Vengono viste talvolta con sospetto perché si ritiene che attraverso queste consulenze gli inquirenti sospettano spesso che questi contratti siano veicoli di tangenti. Talvolta l'ipotesi è che ci siano o delle persone riconducibili, per esempio a politici o funzionari locali, oppure riconducibili addirittura alla criminalità organizzata. La giungla normativa è proprio il terreno di coltura ideale anche purtroppo per fenomeni corruttivi o di altra natura anche più grave. Folla di reati in una giungla di leggi, un quadro che se favorisce i furbetti rischia di allontanare gli imprenditori seri, increduli talvolta di fronte a richieste bizzarre di alcuni enti locali, quelle che in gergo sono state ribattezzate le tangenti comunali. L'avvocato Francesco Prato dello studio Bonelli Erede Pappalardo. Un comune pugliese ha richiesto l'acquisto di due auto per la polizia locale di un defibrillatore. Che con l'impianto eolico non c'entrano molto. Assolutamente nulla. L'altra richiesta esagerata è il corrispettivo che l'operatore avrà dalla vendita del materiale legnoso a seguito del taglio per la costruzione dell'impianto. I comuni lo chiedono alle imprese come compensazione dal disagio per la costruzione di queste pale eoliche? Sì, altre volte semplicemente vengono fatte come volontà di avere denaro o altro tipo di bene e l'operatore sottostà per necessità, perché nessuno pensa che sia possibile andare a realizzare un impianto eolico con un comune che non è dalla tua. Una forma quasi di tangente comunale. Sì, ci sono anche delle richieste che sono un po' borderline. Un comune chiedeva una somma una tantum di 150.000 euro. Tuttavia era prevista la facoltà per il comune di chiedere alla società l'assunzione di personale indicato. Siamo in Calabria. C'è stato qualcuno che di fronte a richieste di questo tipo abbia detto no grazie? Sì, io ricordo un caso di un fondo pensione anglosassone. Noi stavamo lavorando sul progetto, poi si è scoperto che i rapporti tra la società che vendeva e l'amministrazione comunale non erano cristallini e a questo punto il fondo ha deciso di far saltare l'operazione, di non investire più su quel settore. Il fatto che questi impianti siano anche oggi oggetto di inchieste comporta che spesso gli investitori esteri guardino con timore al soggetto che hanno di fronte. Richieste dunque le più fantasiose vengono presentate agli imprenditori, che però preferiscono comunque soddisfarle pur di allontanare ogni possibile complicazione. Contro le pale e i danni, a suo dire, al paesaggio ha tuonato anche Vittorio Sgarbi, come molti sovrintendenti. Attualmente sono 11 gli impianti fermi in attesa di sentenza del TAR o del Consiglio di Stato, secondo i dati illustrati da Italia Nostra al Senato. Dal parco dei Nebroidi, che ostacolerebbe le rotte delle cicogne, a quello di Nardò, dove sorgerebbe troppo vicino alle case, alla Sardegna, dove le pale farebbero diminuire i valori immobiliari. Ancor più gravi sono i danni per gli impianti bloccati da Terna, analizza Simona Viola, avvocato dell'ASPER, Associazione per le Energie Rinnovabili. Da un anno e mezzo sembra che, a secondo dei calcoli approssimativi fatti dall'Associazione dei produttori di energia da fonti rinnovabili, quasi il 30% dell'energia eolica potenzialmente producibile in Italia non viene dispacciata, cioè gli impianti vengono fermati perché risulta insufficientemente capiente la rete di trasmissione nazionale gestita da Terna, che non è stata capace in questi anni di osservare il ritmo di crescita delle rinnovabili locali con un commisurato ritmo di crescita della rete. Quali sono le ragioni più frequenti che portano a dei ricorsi al TAR? Ci sono troppe norme, sono norme spesse volte che si accavallano. Rispetto a questi punti, come le normative sul paesaggio, la distanza dei siti archeologici, su questo tipo di normative esistono delle differenze da regione in regione? L'Italia ha assunto l'impegno in sede comunitaria di produrre entro il 2020 il 27% dell'elettricità con fonti rinnovabili e allo Stato ne produce a malapena il 17%. Ciascuna delle 21 regioni italiane ha adottato una disciplina molto diversa dalle altre per la regolazione della localizzazione di impianti eolici. Questa diversità di discipline rappresenta un costo elevatissimo. È stato dimostrato da un interessantissimo lavoro fatto dal professor Lorenzoni, che insegna allo IEFE della Bocconi, che gli extra costi sono pari al 35%. Quali sono i temi più ricorrenti che portano le regioni a bloccare alcuni degli impianti eolici? Capitolo modifica del paesaggio. Renato Mannheimer ha condotto uno studio che ha dimostrato che i parchi eolici piacciono all'80% dei cittadini italiani. Io comincio a pensare che la vera e propria guerra di religione che le sovrintendenze stanno facendo contro le turbine eoliche sia il segno di una loro totale carenza di rappresentatività. Come sempre potete riascoltare le puntate di Storiacce sul sito di Radio 24 e da lì accedere anche al nostro blog per scrivermi e commentare insieme le notizie. Ciao, a sabato!